Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Parliamo di calcio, ma come sapete io voglio parlare del calcio bello, nobile, epico, è di quello che può piacere anche alle donne, nel senso che nasconde della letteratura dentro di sé, e mi piace di più del calcio dei presidenti milionari, dei petrolieri, degli emiri, dei sultani che comprano squadre con nonchalance e che poi prendono i migliori giocatori come un puzzle di arido, diciamo. Però per fortuna non sempre a questi investimenti corrispondono i risultati, e l'esempio più recente l'abbiamo avuto con le Foxes, le Volpi di Ranieri e del Leicester, che quest'anno sono riusciti a vincere un campionato che nessuno pensava potessero neanche sperare di vincere. Bene, noi oggi vi raccontiamo una storia del genere, perché parliamo di quel Verona che nell'85 conquistò a sorpresa lo scudetto battendo tutte le grandi, e alla guida di quel Verona c'era un uomo semplice, modesto, non uno di quegli allenatori da rotocalchi, una persona seria che ha saputo valorizzare ogni singolo giocatore di quella squadra. Il nome del protagonista di oggi è Osvaldo Bagnoli. Milano 1943, gli alleati stanno scaricando sulla città tonnellate di bombe. Milano è in ginocchio, e in questa Milano messa in ginocchio dalla guerra c'è anche un bambino, si chiama Osvaldo, è appena uscito dalla chiesa per la prima comunione, corre come tutti nei rifugi. Insomma, una città in guerra, una città in cui è faticoso sopravvivere, però vuol dire anche avere tanti prati in mezzo alle case, prati su cui correre a giocare quando si può, e poi quando si diventa un po' più grandi, però i bambini devono smettere di giocare nei prati perché devono andare a guadagnare qualcosa per vivere. Un giorno mi chiamano dal Milan e mi dicono di andare in ritiro a San Pellegrino, ma io non posso, lavoro all'alto forno e se non mi presento perdo il lavoro. Mi chiedono quanto guadagno e io rispondo 28.000 lire al mese. Bene, te ne diamo 35.000. Adesso fai il bravo e vai in ritiro. Quel giorno smettevo di lavorare in fabbrica, l'alto forno, la fabbrica del caldo, in mutande e canottiera. Con il tempo che non passava mai e il calore che ti bruciava la testa, diventavo calciatore. Mi pagavano per un gioco. E capì? Te capì, è certo, qui c'è la grande svolta. Il Milan vuole quel ragazzo che nel frattempo sta lavorando in un alto forno in mutande, sta soffrendo veramente. E la svolta, il primo colpo d'ala. E poi arriva il 18 marzo 1956, l'esordio in prima squadra, Milan-Triestina, Milan 1, Triestina 0. Stiamo parlando di un Milan con dentro gente come Nordahl, Lidl, Maldini, Schiaffino. Per Bagnoli è vivere un sogno. Lui stesso chiede al fotografo di fargli una foto con Nordahl, perché a 21 anni e in quegli anni eri veramente ancora un bambino, e peraltro non un fuoriclasse, insomma uno che dai campioni ha solo da imparare. Io ero un modesto calciatore, però mi rendevo conto che avere in fianco dei grossi campioni, una cosa e l'altra, per un giocatore modesto era una scuola molto importante, insomma, no? Nel 1957 Bagnoli viene ceduto al Verona. Il Verona è in Serie B. Beh, da quel momento Verona diventerà la sua seconda città. Peraltro conosce una ragazza. I due si sposano qualche anno dopo, anche se lui nel frattempo è andato a Udine. Poi si va a Catanzaro, a Ferrara, alla Spal, poi di nuovo Udine, anche se la base continua a rimanere Verona. E poi stagione 67-68, Bagnoli a 32 anni rimane infortunato in un incidente stradale, sta meditando il ritiro dal calcio. Giocare al calcio si sa che si finisce giovani e che dopo, se non hai guadagnato tanti soldi, devi ritornare a lavorare, e questa è la grande difficoltà. Mi ricordo che dovevo andare a lavorare, sono andato a Verbania perché mi davano il posto di lavoro nella legatoria del Verbano, dove imparavo il lavoro per venire qua poi a Verona, che era la mia città dove volevo venire a abitare, per andare nella Mondadori. E Intanto però a Verbania lui riveste anche un ruolo di giocatore allenatore quando nel 73 decide di chiudere col calcio vero, diciamo. Allora va a allenare la Solbiatese in Serie C e poi diventa allenatore in seconda di Pippo Marchioro al Como, e quel Como conquista una storica promozione in Serie A. Lui è il trade union tra l'allenatore e il giocatore e questo gli permette di sviluppare un rapporto paterno, comunque di grande comprensione reciproca, e i giocatori cominciano a cercare lui, sono contenti di parlare con lui, insomma questo diventa un po' il suo stile personale. Due stagioni al Cesena e poi c'è una promozione in Serie A, e poi Celestino Guidotti, presidente del Verona, lo chiama, lui è nel campionato cadetto. Guidotti sta rivoluzionando la squadra, vuole un allenatore che sappia creare un gruppo compatto, insomma, per Bagnoli è non solo un colpo d'ala, ma l'occasione giusta per tornare a casa. Il Falco e il Gabbiano. 1981, Osvaldo Bagnoli trova a Verona una squadra nuova che l'anno prima aveva rischiato di retrocedere in Serie C. Però lui non è uno che si lascia intimidire dalle sfide, poi quella è la grande occasione della sua vita. Insomma, il Verona torna in Serie A e poi bisogna rimanerci però in Serie A. Ma lui ha una squadra ben organizzata, insomma, nel primo campionato in Serie A dell'era Bagnoli, il Verona sorprende tutti, arriva quarto e conquista un posto in Coppa UEFA. Davanti ci sono la Roma, l'Inter e la Juventus. È una provinciale che va a giocarsela con le grandi squadre e poi addirittura arriva in finale di Coppa Italia perdendo con la Juventus. Beh, è una squadra che non ha stelle, la campagna acquisti del Verona è quasi sembrata un saldo di fine stagione, non me ne vogliono i giocatori, ma sono molti giocatori che non hanno più fiducia da parte delle grandi squadre, giocatori che non hanno trovato spazio, magari non sono più giovanissimi oppure sono stati messi in un angolo, stanno tutti andando alla ricerca di un riscatto professionale. Noi andammo a pescare Fanna, che era un giovane molto promettente, che a Torino era chiuso magari da Causio, pur facendo le partite, però non era il titolare fisso. Andiamo a pescare dei giovani alla Fiorentina, dove erano chiusi da De Sisti, da Merlo, da Nazionale, insomma. Insomma, giocatori che hanno voglia di rivincita, questo è il primo dei tanti segreti. Una squadra senza prime donne, senza Falcao, senza Zico, e lui ricorda i suoi anni da giocatore, ricorda l'umiltà con cui ha imparato a giocare stando vicino ai grandi campioni e si ricorda che non c'è da vergognarsi a essere un giocatore non di primissima fascia, anzi l'importante a volte per lui è fare la forza con unione, con coesione, come dice il proverbio. Il giocatore modesto era una figura che poteva renderti di più se era in un contesto di persone modeste, no? Senza una prima figura, insomma. Bisognava valutare anche la persona, perché la persona doveva stare con un gruppo di persone che dovevano aiutarsi fra di loro, insomma, non essendoci il numero uno, insomma. E i risultati si vedono nel campionato successivo. Il Verona è ancora una squadra di vertice, arriva sesta, va in finale di Coppa Italia battuta poi dalla Roma di Falcao, e l'ossatura e comincia a essere ben precisa. Importa una nostra vecchia conoscenza, Garella, quello che l'avvocato Agnelli definì il portiere più forte del mondo senza mani, ma insomma un portierone. Poi c'è la difesa, c'è Tricella che gioca libero, ci sono Ferroni, Fontolanci e Marangon sulla fascia, e poi un centrocampo con Di Gennaro, con Fanna sulla destra quando non svaria a sinistra, con Volpati, poi davanti c'è Galderisi, e poi arrivano gli stranieri. In quegli anni gli stranieri potevano essere al massimo due, ovviamente stiamo parlando di una squadra che non può permettersi grandi investimenti. Arriva un trentenne tedesco, si chiama Hans-Peter Briegel, è un difensore impiegabile anche a centrocampo, calzettoni bassi, assolutamente roccioso, e poi ci vuole una punta e arriva uno strano signore che si chiama Preben Larsen Elker, tutti lo chiameranno Elker o addirittura come soprannome Cavallo Pazzo. È un danese, è veloce, è potente, è grosso, ha fatto bene agli europei di Francia, ha sbagliato il rigore decisivo nella semifinale persa con la Spagna, però è particolare ed è assolutamente complementare con Galderisi, uno piccolo, veloce, sgusciante e l'altro grande, grosso, la classica torre da area. Un'altra caratteristica di Elker, che francamente me lo fa piacere ancora di più, è la sua passione per le sigarette. Molti mi hanno raccontato, molti giocatori di quel Verona, che un classico era la sigaretta tra il primo e il secondo tempo di ogni partita negli spogliatoi. Galderisi per esempio era uno di questi e io li abbraccio sentitamente. Il Verona si presenta all'inizio del campionato 84-85 come una squadra che è sicura di non sfigurare, con una salvezza probabilissima, ma nulla di più. Per avere successo intanto bisogna prendere pochi gol. Quell'anno il Verona di gol ne prenderà solo 19. A questo si aggiunge un andamento costante che va avanti per l'intero campionato. Lui subisce la prima delle sue sconfitte con l'Avellino a metà gennaio e poi cominciano a accumularsi altri punti. La squadra funziona, gira, la stampa comincia a interessarsi a questa outsider che sta forse addirittura correndo per lo scudetto. Lui mantiene tutti con i piedi per terra, ma il capodanno dell'85 viene festeggiato in modo molto particolare dai giocatori gialloblu. All'ultimo dell'anno i giocatori fecero una festa fra di loro, andarono su a Cavalese, dove era il posto del ritiro, e all'ultimo dell'anno loro fecero una festa con le mogli e solo il gruppo dei giocatori. E lì fecero il brindisi augurandosi proprio di già pensavano al grosso traguardo, insomma, ecco. E così avviene. Il 12 maggio 1985 il Verona è a Bergamo contro una rivale storica, l'Atalanta, 1-1, matematica certezza della vittoria in campionato. Ci sono state tappe fondamentali nella loro stagione, molte hanno avuto a che fare con Torino. Intanto la doppia sfida con la Juve, con il Verona che vince 2-0 all'andata con un famoso gol di Elker che fece dopo aver perso una scarpa, e il pareggio 1-1 nel ritorno, e poi la doppia sfida col Torino che peraltro arriverà secondo alle spalle del Verona, e qui il destino e la fortuna fanno la loro parte. Una delle tappe fondamentale è stata Torino nel girone d'andata, una partita dove noi vincemmo facendo una buona partita, ma però le cose ci andarono bene un po', insomma. E d'altronde se raggiungi certi traguardi devi avere anche la fortuna dalla tua parte. Ecco, in quel momento lì noi vincemmo una partita che forse il Torino non meritava di perdere, e il destino che era scritto è facile da capire, perché la stessa partita nel ritorno noi perdemmo in casa col Torino, partita che noi non meritavamo di perdere. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la bellissima storia di Osvaldo della Bovisa, Osvaldo Bagnoli, l'allenatore figlio di operai, lui stesso inizialmente destinato a una carriera in fabbrica, e che invece nel 1985 raggiunge uno scudetto storico in una città che di scudetti non ne aveva mai vinti, cioè Verona. Un fatto veramente anomalo in un campionato come il nostro, in cui la corsa per lo scudetto rimane circoscritta a pochissime squadre, ormai 3 o 4 al massimo, se non una sola. A noi queste storie piacciono veramente molto. Ci piace ricordare quei momenti bellissimi di una città che esplode e va a vincere il titolo. È più difficile segnare o imparare l'italiano? No, tutte e due è difficile. Perché colore ha lo scudetto? Così appena il fischio finale. È stata un'annata strepitosa, perciò il colore più bello che c'è in questo momento, il giallo-blu. Eccolo qua, guarda. Queste erano le mitiche interviste di fine campionato in cui Galeazzi quasi sempre coperto dallo champagne e dalle urla, si avventurava nello spogliatoio. Lì abbiamo sentito Elker e il grandissimo Nano Galderisi. Insomma, il miglior finale possibile, un campionato vinto contro squadre che schieravano Falcao, Zico, Maradona, Platini, il campionato più bello del mondo lo chiamavano allora. Bene, una provinciale con costanza riesce a salire sul gradino più alto del podio. E oggi abbiamo al telefono uno dei protagonisti principali di questa avventura, un calciatore che per quel Verona ha rappresentato sicuramente un grandissimo valore aggiunto, e peraltro un giocatore che ha giocato anche in altre squadre, Juventus e Inter. Sto parlando di Pietro Fanna. Buongiorno, buongiorno Pietro. Buongiorno, buongiorno, non so se possiamo darci del tu. Sì, beh, caspita. Sono un po' emozionato perché, insomma, complimenti per la tua carriera, le tue canzoni. Grazie, grazie Pietro, sì. Io li ricambio. Mi sembra sia, tu, non so se sbaglio, sei interista. Sì. Sono interista. Io ero a Piano Gentile quando tu arrivasti all'Inter. Anch'io da bambino, è stata una scelta dettata da tanto sentimento, che poi speravo andasse meglio, però tutti, insomma, tutti non sempre si ottiene quello che si vuole. Lo so. Senti, come saprai, noi stiamo raccontando la storia di un allenatore assolutamente particolare che è Bagnoli. Un allenatore che riesce a vincere un campionato con una squadra, insomma, non di vertice in qualche modo. In questo periodo in cui tutti parlano dell'Leicester e di Ranieri, ci sono delle analogie. Cosa ti ricordi di Bagnoli? Cioè, la cosa più forte che aveva? La cosa più forte era un uomo taciturno, però aveva le idee chiare, grande personalità, un uomo di campo, come erano gli allenatori di una volta, che facevano dalla preparazione a tutto. Certo. E quindi quello che mi ha stupito da subito è stata la sua, intanto, la mentalità vincente, che a quell'epoca per una provinciale, certo, insomma, era un valore aggiunto. E poi mi voleva creare, per il tempo che era, che si poteva, soprattutto lo spirito da spogliatoio, rispetto dei ruoli. Voi con quel Verona credo aveste vinto lo scudetto in 15 o 16, non di più, giusto? 14, vedi, una delle squadre che ha vinto lo scudetto con la rosa più piccola, diciamo, no? Forse era più facile gestire 14 persone che 35, come succede oggi? Esatto, quello che mi dice adesso il mister è che lui, quando sente adesso queste rose di 30 giocatori, rimane stupito nel dire: ma tu come fai, come si fa, certo, oggi ad allenare 30 giocatori quando sai che 11 giocano e non puoi neanche metterli 11 contro 11 perché ne devi lasciare fuori 7-8. Certo, sì. È un mondo che è cambiato totalmente, un'altra vita fa. Difatti, Bagnoli, quando ha visto che iniziavano a cambiare le regole, ha anticipato tutti e ha smesso. Tra l'altro Ranieri una volta mi disse: ormai non alleni 30 giocatori, alleni 30 giocatori più 30 manager che ti chiamano per chiedergli perché non fai giocare il tuo, il suo, eccetera. Abbiamo dimenticato anche quelli. Abbiamo complicato la situazione. Senti, una delle cose fondamentali del suo credo era che ogni giocatore trovasse il suo posto in campo. Cioè, quanto era importante per lui e quanto ti è servito avere un allenatore che ti faceva giocare dove volevi? Intanto, tu dove volevi giocare? Guarda, io, sai, il mio ruolo è stato l'ala destra, certo, no, ero veloce, quindi io penso con lui si era creato talmente un feeling che non mi diceva neanche più cosa fare. Addirittura prima della partita mi diceva: guarda, inizia sulla destra, poi vai sulla sinistra, e sai che a quei tempi la squadra, certo, zona giocavano in poche, quindi terzino sinistro lo portavo dall'altra parte, per me era una manna, no? Certo. E quindi mi ha dato questa grande libertà, ma non solo a me, un po' a tutti, questa ci ha fatto rendere, diciamo, al massimo, perché sì, lui diceva che il terzino sinistro, il numero 3 deve fare il terzino sinistro, poi c'erano, sai che c'erano in base dall'1 all'11 i certo, ruoli, il 7 marcato dal 3, l'11 dal 2, bravo, il 5, il 9, bravo, esatto, il 6 c'erano libero. Già ruoli prestabiliti con gli avversari connessi, e quindi la sua grande capacità era quella di farti rendere nel tuo ruolo, in base alle tue caratteristiche, il 100%. Senti, quanto conta, l'ultima domanda che ti voglio fare è questa, quanto contava il fatto di vivere in una città, non dico di provincia, insomma Verona è una città meravigliosa, però non in una grande metropoli per quel gruppo? Chiaro che l'ambiente di provincia, diciamo, ti dà la possibilità di vivere una vita, ma soprattutto sotto l'aspetto mediatico non c'è una grande pressione, però sai, quando si gioca a certi livelli, sia per vincere uno scudetto, sia per non retrocedere, certo, le motivazioni sono sempre quelle, no? Tu devi dare il massimo in qualsiasi zona, in qualsiasi posto ti trovi. Beh, quello certo. Io sono capitato nel posto giusto al momento giusto. Pietro, io ti ringrazio infinitamente a nome di tutti noi e anche per tutto il gruppo che avete costruito con Osvaldo. Grazie Pietro. Grazie. Ma c'è subito da lavorare per la stagione successiva e c'è la Coppa dei Campioni da fare. Bisogna dimostrare anche in Europa che la vittoria non è stata un caso fortuito, ma il frutto di un grande lavoro di gruppo. Bagnoli però non ha fatto i conti con un arbitro tedesco e con una vecchia signora. Bisogna ricordare a questo punto che in quegli anni in Coppa dei Campioni andava solo la squadra che vinceva il campionato e l'unica squadra in più era quella che aveva vinto la Coppa dei Campioni precedente, e quindi quell'anno l'Italia di squadre ne schiera due, una è il Verona e l'altra è la Juventus, che l'anno prima, in quella giornata terribile all'Eisel in cui morirono 39 tifosi della Juventus, aveva comunque vinto la Coppa dei Campioni. Peraltro fu una partita che segnò un grande rinnovamento con l'Inghilterra, che riuscì a spazzare via gli hooligans ma che rimase fuori dalle coppe per parecchi anni. Comunque il sorteggio mette di fronte negli ottavi di finale la Juve e il Verona di Bagnoli. La partita di andata si chiude 0-0 al Bentegodi di Verona, si torna a giocare al ritorno a Torino. Porte chiuse. Arbitra il tedesco Wurz, e Wurz prima concede un rigore alla Juventus, un fallo molto molto dubbio di Briegel, poi non vede un fallo di mano in area della Juventus, insomma il Verona perde la partita e la qualificazione ai quarti di finale. Uscendo dal campo, Elker mima all'arbitro il gesto della firma di un assegno per dargli del corrotto negli spogliatoi. Succede di tutto, arriva la polizia, Bagnoli ha una incredibile reazione spontanea che diventa uno di quegli aneddoti del calcio che viene tramandato per generazioni. Fuori c'era già la polizia, e allora cosa succede? Viene dentro, e a me istintivamente si vede che mi è venuto da dire quella frase che se cercano, se cercati ladri, guardate che sono qui. Sì, Bagnoli rimane al Verona fino alla stagione 89-90 e qui il Verona retrocede in Serie B, insomma i miracoli hanno una durata relativa. Poi lui diventa allenatore del Genoa, peraltro rimane due stagioni, porta i grifoni fino alla semifinale di Coppa UEFA e batte in una doppia sfida il Liverpool, sfida che rimarrà nella storia del Genoa perché dopo aver vinto 2-0 a Marassi, il Genoa va all'Anfield di Liverpool e vince 2-1, è la prima squadra italiana a espugnare Anfield Road. E poi arrivano proposte da squadre più blasonate. A fine stagione si parla di Milan. Si dice che Berlusconi non abbia voluto Bagnoli, liquidandolo con una frase lapidaria: peccato che sia comunista. E quindi c'è un'altra squadra di Milano che non ha remore nell'ingaggiare anche delle persone in odore di comunismo, ed è l'Inter. Il presidente Pellegrini chiama Bagnoli a dirigere una squadra dove all'attacco ci sono Schillaci e Rubens Sosa, e quell'anno l'Inter arriva seconda. Poi arrivano nuovi innesti, arriva Bergkamp, arrivano delle frizioni e c'è un divorzio improvviso e doloroso che avviene attraverso un freddo comunicato stampa. Bagnoli viene esonerato e lui liquida il presidente Pellegrini con un secco e perentorio "si vergogni". L'esonero dall'Inter mi ha aperto gli occhi su un mondo che avevo valutato in modo poco approfondito. Restare a casa. Una vita intera lontano dalla famiglia e un giorno ti ritrovi ancora con loro. Però li guardi con occhi diversi e tutto cambia intorno a te. Ti accorgi che il rimanere a casa e godersi i propri affetti non è così traumatico come sembra. Anche perché Osvaldo Bagnoli ha una figlia con una serie di problemi che lui vuol seguire, quindi in qualche modo anche questo determina il suo ritorno a Verona, dove si gode la sua famiglia. Adesso ha superato il traguardo degli 80 anni, guarda al calcio moderno forse con nostalgia, non tanto perché ha voglia di tornare a allenare, ma perché ha voglia di rivedere il calcio che conosceva lui, e sapendo peraltro di avere lasciato a Verona un'impronta indelebile nel cuore di una città che lo ha adottato, che gli vuole bene come un figlio. E questa è veramente una storia di vita straordinaria, la storia di un grande allenatore, ma soprattutto di un grande uomo. E noi vi chiediamo, come sempre, di segnalarci via mail al falcoilgabbiano@radio24.it, oppure di scrivere nei miei social, Facebook, Twitter, in quelli del Falco il Gabbiano, insomma di segnalarci se avete delle storie che volete che noi si racconti. Ciao, a lunedì.